Adesso diamo la parola a Antonio Pavolini, che invece ci spiegherà in qualche modo come tutta l'arte si rientra in questo sistema. Grazie. Prego. Intanto Rossella, grazie infinite per l'invito. È difficilissimo intervenire dopo Isotta Giannetta, chiaramente perché si rischia drammaticamente la secolarizzazione di tutto, e specialmente per una persona come me che si occupa di studiare non solo l'industria dei media, ma una cosa più grande, che sono gli ecosistemi dei media. E in questa differenza tra l'industria dei media e gli ecosistemi c'è una verità nascosta, e cioè che la produzione e la circolazione delle idee, anche attraverso l'arte, a un certo punto è diventato un mercato, non come condizione data, ma come fenomeno storico. E quando appunto accade questo, nasce quella industria culturale di cui parlavano Pasquale di Francoforte, Adorno, Mearsheimer, eccetera. E da quel momento in poi siamo tutti portati a credere che la produzione e la circolazione delle idee sia sempre e comunque qualcosa che si giustifica se produce un valore economico. Tra l'altro, in una dei bellissimi paradigmi che sono presenti in questa mostra, che vi invito a leggere, di Isotta, che sono straordinari perché rappresentano anche un po' la premessa, mi sembra, un po' di tutto il suo lavoro, si parla di beni liberi, e bisogna a un certo punto rispondere alla domanda se le idee siano un bene libero oppure se siano un bene, diciamo, di proprietà, e quindi oggetto di un rapporto di forza, come può essere uno scambio economico. Io mi occupo di economia, no? Personaggio triste che guarda i bilanci dei gruppi editoriali, i numeri nelle caselline, cerca di capire, che so, come il gruppo Gedi sopravviva, come Mediaset proliferi oppure no. Sono portato a dimenticare invece che le idee possono essere un bene libero, e soprattutto quando sono un bene libero riescono ad aprirci nuovi sguardi e punti di vista e frame sul mondo. Ecco, io quello che vedo, che vedevo nell'opera di Isotta, ma anche e soprattutto dopo il suo intervento, quello che vedo è una successione straordinaria di punti di vista, che è anche un po' quello che hanno fatto i cosmologi, no? Cioè hanno fatto sempre vedere l'universo da diversi punti di vista, e questo ha uno straordinario valore educativo, perché quasi tutto il dibattito oggi, il discorso pubblico, è dominato da un'altra dicotomia, che non è cosa è rilevante e cosa non è, quindi cosa rientra nel frame e cosa non rientra nel frame. Siamo tutti a discutere la mattina e la sera che cosa è vero e che cosa è falso. Praticamente tutta l'industria dei media è impegnata tutti i giorni, ma non solo, anche istituzioni pubbliche, fondazioni, scuole, sicuramente anche gallerie d'arte, a organizzare, a partecipare a grandi dibattiti sulle fake news, su ciò che è falso, su ciò che è vero. Abbiamo scoperto questa cosa del falso e del vero praticamente negli ultimi 20 anni, cioè prima era tutto evidentemente vero. E questo è un po' triste, perché se voi prendete la prima pagina del 13 dicembre del 69 del Giorno, il quotidiano di Milano, c'è un titolone di 9 colonne che dice: arrestati gli responsabili della strage di Piazza Fontana e un ballerino anarchico. 9 colonne, così. Ai tempi nessuno parlava di fake news. Ne parliamo adesso. Perché? Perché evidentemente si è stabilito che qualcun altro poteva stabilire che cosa era, non solo che cosa era vero e che cosa era falso, ma soprattutto che cosa era rilevante per noi e che cosa non è rilevante per noi. E questo è il vero problema, la cosa che stiamo dimenticando, non il falso e il vero, ma ciò che è falsamente rilevante, ciò di cui dobbiamo occuparci e ciò di cui non ci occupiamo. A un certo punto l'universo è stato visto, no? Da un'altra angolazione abbiamo scoperto che non è più la Terra al centro del mondo, è il Sole, era sbagliato pure quello, però insomma comunque è un'altra angolazione. Ecco, vedete, il valore educativo della cosmologia è anche questo, per capire nel tempo che forse ciò che è vero e ciò che è falso può passare per un attimo in secondo piano. L'importante è capire che stiamo guardando la cosa giusta, che ci stiamo occupando della cosa giusta oppure no. Ecco, l'arte contemporanea ha questo straordinario merito, e l'opera di Isotta sicuramente ne è l'ennesima conferma. Si sostituisce al racconto dominato dai media nel farci vedere che cosa può essere rilevante per noi. L'industria dei media invece è preoccupata tutto il tempo fondamentalmente a stabilire di che cosa dobbiamo su che cosa dobbiamo scannarci, vero o falso, perché solo in questo modo, mettendosi gli uni contro gli altri, si riescono a liberare i nostri dati verso gli inserzionisti, come sapete, le piattaforme digitali, ma prima ancora, al tempo della televisione, a spostare i nostri occhi verso dei luoghi chiusi dove fondamentalmente ci devono vendere dei bastoncini di pesce. Allora, vedete bene che se l'industria dei media si assume questo compito straordinario di essere addirittura un abilitatore della democrazia, lo fa sulla base di queste premesse, non è per noi un aiuto nell'interpretare la realtà, anzi è un modello tossico che ci allontana da ciò che è rilevante per noi. E lì si aprono praterie, deserti, nel fallimento del modello economico tossico dei media, quello che mi tocca studiare tutti i giorni, scusate, sono praticamente una specie di operatore dell'AMA che va tutti i giorni a vedere tutto quello che non va lì dentro, in questa sacca tossica, piena di scavi, di bastoncini di pesce, tra le altre cose. C'è invece, in questo deserto c'è una straordinaria opportunità. Non appena si esce dal discorso dominante imposto dai media per vendere pubblicità, per vendere i nostri dati, si entra, finalmente si scoprono le notizie, per esempio. Cioè oggi quando entriamo, usciamo da una galleria d'arte come questa, ancora di più in un museo, usciamo con molte più notizie rispetto a quando apriamo e chiudiamo un giornale. Non solo, quando ci sono grandi investimenti pubblici, per esempio, che sfuggono ai rapporti economici di forza, in una grande manifestazione d'arte contemporanea succede sempre qualcosa di sbagliato, succede sempre qualcosa che scandalizza perché, tra virgolette, non necessariamente accontenta il mercato o i mercati. Pensiamo alle ultime due documenta, no? La documenta 14, quella di Sismic, è stata una specie di insulto per il mondo dell'arte, no? Lui ha spostato tutto quanto da Kassel ad Atene e nel 2015 ha detto fondamentalmente ai tedeschi: guardate cosa avete fatto ai greci, e l'ha fatto dire agli artisti. Adesso l'ultima documenta è stata, il direttore artistico era un collettivo di artisti indonesiani, no? La Ruang Group, che erano già famosi per conto loro, e che cosa è venuto fuori? Tutto quello che i media non accettano, opere antisemite, opere che ci hanno fatto ingoiare un boccone amaro, noi tutti abituati a leggere le cose in un certo modo. E perché? E perché dietro c'era un grosso investimento pubblico, che tra l'altro poi ha costretto gli stessi vertici della documenta a dare le dimissioni, perché era diventato una specie di insulto pubblico. Però vedete come il confronto, il contrasto, l'imprevisto accade tutte le volte che non sono i media a dire perché dobbiamo brindare per qualcosa, perché dobbiamo celebrare qualcosa, no? Tutto quello che non funziona è per noi una straordinaria opportunità di scoperta, e tutto ciò che non funziona, tutto ciò che è controverso, nuove visioni del mondo, anche molto profonde, come quelle di Isotta. Oggi gli artisti contemporanei possono farlo, sostituendosi a chi tutti i giorni va al Festival del Giornalismo di Perugia a dirci che sono loro che salveranno il mondo, e non internet, per esempio, e non le fake news online. Ecco, l'arte contemporanea, soprattutto quando essa stessa non è schiava dei media, ci dà questa grande opportunità. Si può giocare con i media, come hanno fatto Basquiat, come hanno fatto Warhol. Si può a un certo punto anche essere, come diceva Beuys, veniva accusato di sensazionalismo a un certo punto, no, Beuys? E lui diceva: no, ma il problema non è essere sensazionalisti, l'importante è aver fatto qualcosa di sensazionale. Poi se i media in qualche modo sopra riescono a costruirci un meccanismo di presidio per l'attenzione, non può essere un mio problema, diceva Beuys, no? Quindi lui era comunque un sensazionalista intellettualmente onesto. Oggi ci sono tantissimi artisti, francamente, che non hanno più il problema del sensazionalismo perché lo hanno superato a destra, forse infrangendo le norme del codice stradale, hanno superato a destra come si può fare nelle strade a più di tre corsie. Ok? Questo è quello che secondo me è riuscito a fare anche Isotta in questa straordinaria mostra, della quale naturalmente la ringrazio, anche solo per tutto ciò che ha aggiunto alle nostre vite. Grazie.